Siamo nella Project Room per il nuovo lavoro che sarà in esposizione imminente al Mambo e siamo con la curatrice del progetto, Francesca Verga. Grazie della disponibilità e buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Di che si tratta questo lavoro che a quanto pare ha un'intersezione importante oltre confine? Sì, allora, il titolo della mostra si chiama appunto Bologna Street 173, un viaggio a ritroso, congressi e festival eritrei a Bologna e è un progetto dell'artista Mona Mussie che lavora con gli archivi e la memoria dei festival eritrei a Bologna che si sono tenuti dal 1972 al 1991. In questi percorsi artisticamente come si è evoluta l'espressione appunto che vede un dialogo importante tra le comunità? Allora, diciamo che parte da tutto il progetto personale anche dell'artista, la sua memoria personale che è nata in Eritrea e poi è cresciuta a Bologna ed è intervenuta con i materiali di archivio di diversi archivi bolognesi per ricostruire questa storia. E gli archivi che sono stati coinvolti sono l'archivio storico del Comune di Bologna, la biblioteca Amilcar Cabral, Home Movies, che è l'archivio nazionale dei film di famiglia del Fondo Giorgio Lolli, il resto del Carlino, l'archivio storico Paolo Pedrelli, CDLM di Bologna, la comunità eritrea in Italia ovviamente e gli archivi fotografici privati dei fotoreporter che documentavano questi festival tra gli anni 80 e 90, che sono Mario Rebeschini, Massimo Sciacca e Luciano Nadalini. L'artista è intervenuta con questi materiali d'archivio, a volte presentando propri materiali, altre volte intervenendo proprio con i materiali e creando delle nuove opere, come è il caso appunto del resto del Carlino, dove c'è un giornale che lei chiama appunto lo scacciamosche, no? Africano, dove è intervenuta appunto con un'installazione. Il percorso in mostra a questo punto come è stato portato per il pubblico? Allora, il percorso in mostra è stato portato in base anche ai materiali a disposizione, che appunto è un percorso che è fotografico e installativo, dove l'artista ha messo appunto dei tessuti, ad esempio di Nezela, dove ricama delle sigle delle associazioni. Ci sono delle opere nuove come può essere una scultura di popcorn, i materiali di archivio video e dei documenti che vengono presentati al pubblico dove appunto l'artista interviene e non si è voluto diciamo dare una visione prettamente diciamo cronologica, ma il pubblico entrerà in sala e seguendo quasi la figura, la forma dell'uroboro, continuerà diciamo per la sala, guarderà il materiale e poi uscirà con l'ultima opera in mostra che è appunto richiamo all'uroboro con la pelle di serpente. Ecco, spieghiamo l'uroboro per i nostri ascoltatori. Sì, che è diciamo il simbolo dell'eterno ritorno. Esatto. Esatto. Domani alle 6 ci sarà una performance che coinvolge 50 performer in sala delle ciminiere al Mambo che appunto ripercorrendo questa forma circolare dell'uroboro ripercorreranno la mappa di Asmara dove c'era là, appunto cioè è stata dedicata questa via che si chiama Bologna Street ad Asmara ripercorrendo diciamo il percorso. Certo, sarà proposto anche quindi un dialogo veramente di andata e ritorno oltre che di circolarità. Sì. E la mostra è quanto mai eterogenea, la mostra ha installazioni, ha video, ha reportage storici dall'informazione, ha un'estetica quanto mai particolare, ha coinvolgimento e dialogo con il pubblico in maniera assolutamente originale. E com'è arrivata questa esposizione, dottoressa? Diciamo che è un lungo percorso che l'artista Muna Mussie ha iniziato nel 2021 con Archive Milano, che è un'associazione no profit che ha sede sia a Berlino che a Dakar che a Milano, dove l'artista ha fatto una mostra e ha iniziato nel 2021 a ragionare proprio sui festival e congressi eritrei. E da quel momento abbiamo fatto un'application per l'Italian Council che è stata vinta, quindi il progetto è parte dell'Italian Council, della Direzione Generale delle Arti Contemporanee del Ministero della Cultura, e è parte di un più ampio percorso, nel senso che quest'anno poi l'artista farà ricerca sia ad Asmara che a Berlino, dove ci sarà una mostra l'anno prossimo, e poi ci sarà un'opera finale che verrà donata al Museo d'Arte Moderna di Bologna, al Mambo. Possiamo quantificare le opere in mostra? È sempre difficile, questo. È sempre difficile, però sì, diciamo che tra progetti di archiviazione e opere nuove di Muna si aggirano intorno a una trentina. Certo, delle opere e come ho presentate detto, con aspetto nuove, diciamo, eterogeneo. Eterogeneo, certo. Io la ringrazio tantissimo e grazie, le auguro a voi. Buona giornata. Grazie.